Tengo un testimon fedele, vostro mio favor felice intiego, al fin col vostro mezzo la mia grande nemica è già plasmata. Come, signor? Siete informato del voler d'Astella? Ma certo dell'assenso, sai da suo fino. Siete poi risoluto, porterò oggi la destra al mio figlio d'un padre ancor sdegnato. Baiavete cangerà pensiero, quando Astella vedrà salita in trono. Dopo si grande acquisto, l'avete ancor veduta? Giunger devi a momenti nelle mie regge tende. Anche questo di più. Ciò è noto al padre. Perché tante richieste? Prince, attendete al vostro, già vicino i meo. Irene che accogliste vostra sposa. Vado ad ordinare la pompa, che questo giorno sarà di vostri e di mie faci adorno.